Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. È il 1954. Siamo a San Pellegrino Terme, a un convegno dove affermati scrittori devono presentare le speranze delle ultime leve letterarie da loro scovate. Le liriche di una giovane promessa siciliana sono arrivate ad Eugenio Montale, che, riconosciuta la qualità delle sue poesie, decide di portarlo con sé proprio a questo convegno. Il novello poeta è il barone Lucio Piccolo e si farà accompagnare a San Pellegrino Terme solo dal suo fidato autista, Don Peppino, e da un suo cugino, Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa. La storia che raccontiamo oggi parla dell'incontro tra uno sconosciuto, almeno al mondo letterario, Tomasi di Lampedusa, e un altro grande scrittore, Giorgio Bassani, colui che darà al principe la possibilità di regalare al mondo il suo capolavoro, Il Gattopardo. L'incontro tra i due avviene in circostanze fortuite, come sempre, quando il destino decide di metterci lo zampino per cambiare il corso della storia. Ma per capire meglio come siamo arrivati a San Pellegrino Terme, al momento in cui Giuseppe Tomasi stringe la mano a Giorgio Bassani, dobbiamo fare un passo indietro sul barone Lucio Piccolo, l'uomo grazie al quale questo è stato possibile. Siamo a Messina e sostiamo su un marciapiede di fronte alla libreria e tipografia Progresso dei fratelli Zuccarello. È metà mattina e il sole già scotta. Il Progresso, tempio della carta scritta, è teatralmente avvolto nella penombra come quasi tutti i negozi siciliani quando la bacinante luce estiva colpisce le strade della grande isola. Un'auto di lusso si ferma lì davanti. Scendono Don Peppino, l'autista, e un piccolo uomo, il barone Lucio Piccolo, che una volta entrato nella tipografia consegna a uno dei fratelli Zuccarello dei fogli dattiloscritti e annuncia tra l'imbarazzato e il divertito: «Queste sono le poesie». Il negoziante e il poeta prendono a discutere di carta, di carattere, di copertine, finché Piccolo non viene rapito da un ragazzo che sta sistemando dei libri su uno scaffale. Tra questi c'è una guida, la guida al Monte Pellegrino. Piccolo prende il libro e lo apre. Gli almanacchi, le guide, le storie locali sono pieni di insospettabile poesia. Senta questo attacco. Quando, mio caro lettore, ti trovi in quella grande pianura alla quale i moderni diedero il nome di Piazza del Campo e che comunemente da antichissimo tempo si chiama Falde, gira lo sguardo a te attorno e per quanto la tua vista si estende di fronte fino alle grandi prigioni e da sinistra fino al mare. Il giovane rimane affascinato. Il tono, la cadenza con cui quest'uomo ha letto queste poche righe hanno reso una guida turistica quasi il principio di una poesia. Il giovane siciliano che ascolta è Vincenzo Consolo e non sa ancora che diventerà pure lui un grande scrittore. Chi parla invece è Lucio Piccolo, anch'egli ignaro che l'opera appena consegnata per la stampa lo renderà a tutti gli effetti un poeta. Consolo racconta così di quell'incontro. Ero rimasto lì incantato quando Lucio Piccolo sorrise ancora, mi tese la mano e disse: «Ho un'intera biblioteca di questi vecchi libri. Venga, venga a trovarmi a Capo d'Orlando. Al chilometro 109 c'è una stradina che arriva fino alla casa». E sparì con Don Peppino dietro. Venne stampato quel libretto che fu inviato a Montale per il premio San Pellegrino. E quando Mondadori pubblicò i Canti Barocchi, con quella prefazione di Montale che diceva «Il libriccino intitolato Nove liriche stampato da una sola parte del foglio e impresso in caratteri frusti e poco leggibili», ecco, quei caratteri frusti e poco leggibili fu un affronto per Don Ciccino Zuccarello. «Io lo denunzio, questo Montale, lo denunzio!» si mise a urlare. Lo stesso Consolo descrive con queste altre parole le Nove liriche, la prima opera che Piccolo decise di pubblicare. Aveva fin da giovane scritto, scritto e distrutto, finché non compose i Canti Barocchi in uno stato di incandescenza, di raptus, e non decise di esporsi, di pubblicare finalmente, a 52 anni. Liriche purissime, singolari, inedite nel panorama italiano, in cui convergevano tutta l'esperienza poetica europea vecchia e nuova. Una poesia dove vi è la natura dolce e panica, misteriosa, concreta ma mutevole della campagna di Capo d'Orlando, dove vi sono le chiese barocche, gli oratori, i vecchi conventi e le anime adeguate a questi luoghi della Palermo della sua infanzia e adolescenza. Le passate stagioni, i trapassati che ritornano in amorosa evocazione, in notturna processione, in febbrile ansia, in struggente flusso di memoria. Nelle sue poesie è piccolo, è come se raccontasse sempre da un altro mondo, un mondo quasi sognato. È un uomo di grande cultura che vive ritirato. Morta la madre baronessa, conduce la sua vita nella villa di famiglia insieme al fratello e alla sorella. Coltivano le proprie passioni, il fratello l'occultismo, la sorella la floricoltura, Lucio lo studio della letteratura. Ognuno di loro segue il ritmo della propria esistenza, senza adattarsi a quello del mondo là fuori. Consolo racconta così dell'ultimo incontro con Lucio Piccolo prima che questi muoia. Lo vidi l'ultima volta un anno dopo. Trascrivo da un mio diario. Entro in casa Piccolo a Capodorlando nel momento in cui la televisione trasmette l'arrivo sulla Luna dell'Apollo 11. Il fratello del poeta mi chiama e mi fa accomodare davanti al televisore. Il poeta non viene. È sera, fuori il vento e la pioggia sferzano le campagne. La voce dello speaker alla televisione, man mano che passano i minuti, è sempre più forte, ansiosa, concitata. Piccolo è sprofondato nella poltrona, silenzioso e immobile, in un'altra stanza, piena di penombra. Non ha visto gli astronauti finalmente giunti a bordo dello Yorktown. Non ha sentito la voce di Frank Borman che saluta il mondo. Lo raggiungo. Per la teoria delle ombre, mi dice, la mia prossima raccolta, ho preso spunto dagli studi di prospettiva che ho fatto nella mia giovinezza. Mentre Lucio Piccolo, nella grande casa, contempla i propri ricordi in uno stato di naturalissima concentrazione, il comandante del modulo spaziale Apollo 11, non ascoltato dal barone, si rivolge all'umanità. Qui è il pilota del modulo lunare. Voglio cogliere questa occasione per chiedere a tutti coloro che sono in ascolto, chiunque e dovunque, di fermarsi a pensare per un momento, di riflettere sugli avvenimenti delle ultime ore e rendere grazie, ciascuno a suo modo. C'è tutta l'immagine di un mondo e di un modo di essere nel poeta che in una stanza vive dei propri pensieri, mentre in quella a fianco un astronauta, il primo nella storia, sbarca sulla Luna. Lucio Piccolo è un uomo di poche frequentazioni, solo qualche amico o parente che ogni tanto viene a trovarlo. Il più assiduo è un cugino quasi coetaneo. Insieme condividono la passione grandiosa per la letteratura e la malsopportazione per la televisione. Il cugino di Lucio si lamenta che con quell'apparecchio sulle ruote non si può più conversare. Entrambi scrivono, ma sono restii a mostrare le proprie opere. Il cugino di nome fa Giuseppe e il cognome è Tomasi di Lampedusa. Ma torniamo a San Pellegrino Terme, dove in quei giorni di simposio letterario, Tomasi di Lampedusa, che ancora non è uno scrittore, ma è lì solo in qualità di accompagnatore, incontra Giorgio Bassani. Ecco come lo racconta lo stesso Bassani. Fu a San Pellegrino che Eugenio Montale ci dette la prima notizia dell'esistenza di un nuovo autentico poeta, il barone Lucio Piccolo di Capodorlando. Lucio Piccolo risultò una vera rivelazione del convegno. Più che cinquantenne, distratto e timidissimo come un ragazzo, sorprese e incantò tutti, anziani e giovani. Bassani, nell'atto di scrivere questi pensieri, prova il desiderio di ricordare perfettamente quei pochi momenti a San Pellegrino. Lui prova il piacere di raccontare, anche attraverso la figura di Lucio Piccolo, alcune caratteristiche di Tomasi di Lampedusa. Nelle sue parole emerge la stima nei confronti di personaggi così diversi rispetto a quelli che abitualmente si incontrano nei circoli letterari. Nei due siciliani è totalmente assente la smania di apparire e di farsi conoscere. Subito si nota come vivano di un loro garbato mondo interiore che in quel contesto li rende quasi naif. Dalla Sicilia, Piccolo era venuto in treno, facendosi accompagnare da un cugino più anziano e da un servitore. Ce n'era abbastanza per eccitare una tribù di letterati in semivacanza. Sta il fatto che Piccolo, il cugino, il servitore, durante il giorno e mezzo che rimanemmo a San Pellegrino, attirarono la curiosità e lo stupore e la simpatia generali. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Nel nel ricordo di Bassani, Tomasi di Lampedusa diventa immediatamente un personaggio da romanzo. È il sistema con cui lo scrittore Bassani cerca di fare sua quella figura sfuggente, cerca di renderne la carne e le ossa, scrivendone in modo da sentire quasi la sua voce. Fu Lucio Piccolo stesso a dichiarare nome e titolo del cugino, Giuseppe Tomasi, principe di Lampedusa. Era un signore alto, corpulento, taciturno, pallido in volto. Dal pastrano accuratamente abbottonato, dalla tesa del cappello calata sugli occhi, dalla mazza nodosa a cui camminando si appoggiava pesantemente, uno l'avrebbe preso a prima vista, che so, per un generale a riposo o qualcosa di simile. Era ormai verso i 60. Quando gli fui presentato, si limitò ad inchinarsi brevemente, senza dire una parola. Non è un caso forse che Bassani finisca così il ricordo di quell'incontro, di quell'uomo, di cui avrà l'onore e la capacità di rendere pubbliche le parole scritte, senza averne mai sentito la voce. C'è da dire che le parole scritte, in quei giorni, non sono state ancora concepite. Forse è stato proprio il convegno di San Pellegrino a far scattare una molla nel cervello del principe che di lì a poco concepirà uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano, Il Gattopardo. Gioacchino Lanza Tomasi, figlio adottivo di Giuseppe, ha scritto una prefazione dell'edizione del Gattopardo nel 1969. Anche lui racconta del convegno di San Pellegrino. Il letargo dello scrittore durò fino al convegno svoltosi a San Pellegrino Terme nell'estate del 54. L'attività poetica e la fortuna del cugino Lucio Piccolo, le lezioni pomeridiane che impartiva Francesco Orlando, anch'egli a quel tempo poeta e narratore, si tradussero in incentivi all'azione. Scriveva di già sul finire del 54 e nei 30 mesi successivi che gli restarono da vivere, Lampedusa scrisse quasi ogni giorno, indipendentemente dal successo, quello che la sorte in vita gli negò. E un altro giorno è andato, la sua musica ha finito, quanto tempo è ormai passato e passerà. Quando l'esistenza del principe di Lampedusa sta per giungere al termine, egli da poco ha finito di scrivere il suo capolavoro. Sta per andarsene, dopo aver vissuto una vita molto intima e in parte misteriosa. Ogni pagina del suo romanzo porta con sé il senso della sua esistenza, che il critico Geno Pampaloni descrive in questo modo. È un'avventura spirituale, intensa e sorvegliata. Una consapevole lettura del mondo e del nostro tempo. Ma è anche una lettura sofferta, per quel senso di immutabilità del destino. Lampedusa e il suo Don Fabrizio, protagonista del romanzo, si assomigliano molto. Appartengo a una generazione disgraziata, a cavallo fra i vecchi tempi e i nuovi, e che si trova a disagio in tutti e due, come fa dire proprio a Don Fabrizio. Sono le parole che avrebbero potuto uscire non solo dalla sua, ma anche dalla bocca del principe. Anche lui lamenta lo stesso disagio, ma è un disagio che per la sua indole avrebbe probabilmente vissuto in qualunque angolo della storia fosse nato. La consapevolezza della propria natura gli permette di avere sempre un atteggiamento di sorriso amaro, di lucida e amara analisi degli eventi. Possiamo anche forse immaginarci la sua pacifica ma sofferta presa di coscienza quando si vede rifiutare il Gattopardo da diversi editori. Il principe muore nel 1957, prima che qualcuno pubblichi il suo libro. Nel Gattopardo, Don Fabrizio spira nel 1883. Nell'ultimo capitolo, in cui Don Fabrizio è ancora vivo, Lampedusa apre e conclude con questi pensieri l'esistenza del suo protagonista. Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di esistere, la vita, insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere, andassero uscendo da lui lentamente, ma continuamente, come i granellini che si affollano e sfilano ad uno, senza fretta e senza soste, dinanzi allo stretto orifizio di un orologio a sabbia. In alcuni momenti di intensa attività, di grande attenzione, questo sentimento di continuo abbandono scompariva per ripresentarsi impassibile alla più breve occasione di silenzio o di introspezione. Nell'ombra che saliva, si provò a contare per quanto tempo avesse in realtà vissuto. Il suo cervello non dipanava più il semplice calcolo. 3 mesi, 20 giorni, un totale di 6 mesi, 6 per 8, 84, 48.000. Si riprese. Ho 73 anni. All'ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di 2, 3 al massimo. E i dolori, la noia, quanto erano stati? Inutile sforzarsi a contare. Tutto il resto, 70 anni. Restaci tu qui, soffrirò di nostalgia. Ma devo uscire fuori da qui. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati stiamo raccontando la storia e l'incontro tra Giorgio Bassani e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. I due si incrociano per la prima e unica volta nella loro vita a un convegno a San Pellegrino Terme. Nessuno dei due sa ancora che Bassani avrebbe reso immortale il principe di Salina. Tornando da San Pellegrino, Tomasi si mette a scrivere. Gioacchino Lanza Tomasi, il figlio, ricorda che il patrigno gli disse queste parole. Saranno 24 ore della vita di mio bisnonno il giorno dello sbarco di Garibaldi. Una volta terminato lo scritto, Tomasi di Lampedusa comincia a mandarlo in giro. Arriva anche tra le mani di Elio Vittorini, che legge il dattiloscritto per la Mondadori. Il 2 luglio del 1957, il principe riceve una lettera. Il mittente è Vittorini. Tomasi, quella mattina, seduto in una poltrona dei numerosi salotti della sua villa, si appresta a leggere la missiva. Con quella lettera tra le mani lo coglie un'emozione mai provata. La stessa di Don Fabrizio del Gattopardo, quando sta per morire, mentre stila mentalmente un elenco in cui voleva raggranellare fuori dall'immenso mucchio di cenere delle passività le pagliuzze d'oro dei momenti felici. Tra i diversi momenti, ne ricorda alcuni prettamente legati all'orgoglio e alla vanità, che sono del personaggio del romanzo, così come del suo autore. I momenti soddisfatti, nei quali aveva dato risposte taglienti agli sciocchi. La contentezza provata quando si era accorto che nella bellezza e nel carattere di Concetta si perpetuava una vera Salina. Qualche momento di foga amorosa. La sorpresa nel ricevere la lettera di Arago, che spontaneamente si congratulava per l'esattezza dei difficili calcoli relativi alla cometa di Huxley. E perché no, l'esaltazione pubblica, quando aveva ricevuto la medaglia in Sorbona. Il principe ha ragione, pensa di aver scritto un romanzo di valore. Ma cosa ne avrebbe pensato quel mondo là fuori in cui pochi la vedono come lui? La risposta in quella missiva che tiene tra le mani. Vittorini, scrittore famoso e siciliano come lui, avrebbe capito l'importanza del Gattopardo. Il principe apre la busta ed estrae la lettera. Comincia a leggere. Egregio Tomasi, il suo Gattopardo l'ho letto davvero con interesse e attenzione. Anche se come modi, tono, linguaggio e impostazione narrativa può apparire piuttosto vecchiotto, da fine Ottocento, il suo è un libro molto serio e onesto, dove sincerità e impegno riescono a toccare il segno in momenti di acuta analisi psicologica, come nel capitolo quinto, forse il più convincente di tutto il romanzo. Tuttavia, devo dirle la verità. Esso non mi pare sufficientemente equilibrato nelle sue parti, e io credo che questo squilibrio sia dovuto ai due interessi, saggistico e narrativo, che si incontrano e scontrano nel libro con prevalenza, in gran parte, del primo sul secondo. Per più di una buona metà, ad esempio, il romanzo rasenta la prolissità nel descrivere la giornata del giovane signore siciliano, la recita quotidiana del rosario, la passeggiata in giardino col cane Bendicò, la cena a Villa Salina, il salto a Palermo, dall'amante, eccetera. Mentre il resto finisce per risultare piuttosto schematico e affrettato. La lettera di Vittorini prosegue poi per un'altra mezza pagina, ma il tenore della critica non cambia. Vittorini non giudica il libro maturo per la pubblicazione e conclude scrivendo queste parole. Mi trovo nell'assoluta impossibilità di prendere impegni o fare promesse, perché il programma dei gettoni è ormai chiuso per almeno 4 anni. Ho già in riserva, accettati per la pubblicazione, una ventina di manoscritti che potranno uscire al ritmo di non più di 4 l'anno. Il manoscritto glielo faccio avere con plico a parte. Con i migliori saluti, suo Elio Vittorini. Perché non sai soffrire? Ti devo tanto come uomo. Lavoro insieme ai figli tuoi. Oh Milano, fa di me quello che vuoi. Ti lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. Tomasi si cela in una maschera, chiude la lettera e la ripone nella busta. Poi esce di casa. Ogni mattina è solito andare dal giornalaio e comprare il Corriere della Sera e il Giornale di Sicilia. Poi va al caffè a leggere e divertirsi, segnando gli strafalcioni dialettali del Sicilia. Il principe commenta in questo modo la risposta ricevuta con gli amici al caffè. Come recensione non c'è male, ma pubblicazione niente. Probabilmente molte altre cose gli passano per la mente, e altre ancora ne avrebbe pensate e forse dette se avesse potuto assistere alla pubblicazione e al successo del suo libro in Italia e all'estero, grazie all'interessamento di Giorgio Bassani. Bassani è un uomo dalla multiforme cultura e dalla vita intensa. Oltre ad essere un romanziere, ha fondato e scrive su diverse riviste letterarie. Collabora come sceneggiatore in film di soldati, Antonioni, Blasetti. Vive a Roma e svolge anche delle consulenze per la casa editrice Feltrinelli. Nel 1957 vince il premio Strega con 5 storie ferraresi. Quell'anno, a primavera, riceve una telefonata. È la sua amica napoletana Elena Croce. Ha saputo della nuova attività editoriale di Giorgio e vorrebbe sottoporgli un manoscritto. Di chi è? Domanda Bassani. Beh, leggilo e lo scoprirai presto. Di lì a poco Bassani ha in mano il dattiloscritto. Non recava alcuna firma. Di una cosa fui subito certo: che si trattasse di un lavoro serio, opera di un vero scrittore. La lettura completa del romanzo non fece che confermarmi la prima impressione. Telefonai subito a Palermo e seppi così che l'autore del romanzo era Giuseppe Tomasi, duca di Palma e principe di Lampedusa. Sì, proprio il cugino del poeta Lucio Piccolo di Capo d'Orlando. In Bassani riaffiora subito alla memoria quel curioso e taciturno personaggio conosciuto anni prima a San Pellegrino. Forse andando mentalmente a ritroso nella lettura appena compiuta del Gattopardo, dà il volto e il corpo del principe a Don Fabrizio. Richiama di nuovo a Palermo per mettersi in contatto con l'uomo a cui aveva stretto la mano soltanto una volta. Vorrebbe parlargli, discutere con lui del romanzo, dirgli che lo trova splendido e che ha assolutamente intenzione di farlo pubblicare. Ma una sorpresa lo attende. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati stiamo raccontando la storia dell'incontro tra Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Giorgio Bassani. Tomasi ha scritto un unico libro in vita sua, Il Gattopardo. E Bassani, dopo che il romanzo è stato rifiutato da diversi editori, decide di farlo pubblicare dalla Feltrinelli. Dopo averlo letto, vuole mettersi in contatto con l'autore che aveva conosciuto anni prima a San Pellegrino Terme, durante un convegno. Vuole discutere con lui dell'opera, complimentarsi. Così chiama Palermo. La notizia che lo aspetta dall'altro capo del telefono è sconcertante. Il principe Giuseppe, ammalatosi gravemente la primavera precedente, è morto a Roma, dove era andato per un estremo tentativo di cura, il luglio dello stesso anno. Bassani rimane di sasso. Ancora, la sensazione suscitata da quella notizia gli riecheggia in testa quando scrive la prefazione del romanzo. La vita è musicale, si sa. Sui suoi temi fondamentali, sulle sue frasi più intense, non ama indugiare. Si limita a darteli di furto, ad accennarteli appena. Sull'onda di una di queste frasi, Bassani decide di andare comunque in Sicilia. Sente il bisogno di andare a scoprire e conoscere il mondo del principe defunto. Ha bisogno di capire meglio, di indugiare nella casa, nello studio e tra gli scritti di quello che ormai è solo un fantasma. Così una mattina prende un treno. La torrida estate isolana deve ancora arrivare con il suo carico di odori e sudori. Siamo ancora in primavera, nel maggio del 1958. Una primavera che regala a Palermo una vita ancora vivace, fresca, in cui si può pensare a mente lucida. Bassani non può incontrare chi lo ha spinto laggiù, il taciturno autore del romanzo che ha per le mani, ma può respirare l'aria che ha respirato lui, sentire sotto i piedi la terra che gli ha dato l'ispirazione, passeggiare per i corridoi della sua casa. perché se l'assenza di Tomasi è una realtà ineluttabile, la sua presenza può ancora essere recuperata nei luoghi, nelle persone. E fra queste, più di tutte, può rivivere negli occhi e nelle parole della moglie, che svela a Bassani anche la genesi del romanzo. 25 anni fa mi annunziò che intendeva fare un romanzo storico ambientato in Sicilia all'epoca dello sbarco di Garibaldi a Marsala e imperniato sulla figura del suo bisnonno paterno. Ci pensava continuamente, ma non si decideva mai a cominciare. Alla fine, scritte le prime pagine, aveva proceduto di gran lena. Andava a lavorare presto e non rientrava che verso le 3. La moglie di Tomasi di Lampedusa è la baronessa Alessandra Wolf Stomerse, la prima donna psicoanalista italiana. Sono lei e il figlio adottivo del principe, Gioacchino, a raccontare a Bassani la vita di Giuseppe. Lanza Tomasi ricorda di come nel 1953 Lampedusa sente di dover fare qualcosa per animare Palermo. È uomo di cultura mostruosa, ha letto tutto. E allora prende a frequentare un gruppo di giovani conosciuti in casa del barone Bebuzzo Sgadari di Lomonaco. Bebuzzo è un'originale figura di omosessuale, un aristocratico. In casa sua passano gli intellettuali da Bacchelli a Berenson, fino a Calvino. Dipingono Lampedusa come un conservatore. Ma non lo era. Votò monarchico al referendum del 46, poi credo votasse per la DC. Ma conosceva Marx, studiava Lenin, Croce, Gramsci e credeva nella rivoluzione francese. Considerava la decapitazione di Luigi XVI la testa meglio staccata della storia. Era persuaso che la storia dovesse muoversi di tanto in tanto con delle scosse formidabili. Sono tutte informazioni che aiutano Bassani a farsi un'idea più chiara dell'autore del Gattopardo. In quel soggiorno recupera inoltre non soltanto il manoscritto, ma anche molte altre carte inedite, 4 racconti, vari saggi sulla narrativa francese dell'Ottocento. Poco alla volta, Bassani comincia a conoscere il principe. Capisce che è stata una persona coltissima, che conosce a fondo le principali letterature e ha diviso la propria vita tra l'odiosa amata Sicilia e i lunghi viaggi all'estero. Più Bassani si addentra nella vita del principe, più capisce quanto possa assomigliare al Don Fabrizio del Gattopardo. Il romanzo è accentrato quasi interamente attorno a un solo personaggio, il principe Fabrizio Salina, in cui è da vedere un ritratto del bisnonno paterno, ma forse ancor più un autoritratto, lirico e critico insieme. Nel suo viaggio siciliano capisce ancor meglio il romanzo che l'ha portato su quell'isola. Ne cura con devozione la fase di edizione e nel settembre del 1958 lo fa uscire con Feltrinelli. Nelle ultime parti della sua prefazione si legge un vero spirito di amore verso il principe di Lampedusa e il suo libro. Dopo aver spiegato il suo incontro con Tomasi e l'importanza di questo romanzo, ci invita alla lettura del Gattopardo. Provvederà certo la critica a collocare il nostro scrittore al suo giusto posto nella storia della letteratura italiana dell'Ottocento. Quanto a me, preferisco per ora non aggiungere altro. Sono persuaso che la poesia meriti di essere considerata almeno per un momento per quello che è: il primordiale dono di illusione, di verità e di musica che vuol darci. Infine Bassani, come solo può fare chi ha amato profondamente un libro, rievoca dentro la sua testa quelli che saranno i personaggi che noi lettori abbiamo imparato a conoscere e ad amare, anche grazie alla splendida trasposizione cinematografica di Luchino Visconti. Il pubblico dei lettori avrà avuto il tempo di innamorarsi ingenuamente di quei personaggi della favola dentro i quali l'autore se ne sta chiuso, del principe Don Fabrizio Salina, di Tancredi Falconeri, di Angelica Sedara, di Concetta e di tutti gli altri, e il povero cane Bendicò compreso. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.